Zibaldone. Zibaldone, Zibaldone, Zibaldone, Zibaldone, Zibaldone, Zibaldone, Zibaldone, Zibaldone. Un programma italiano non solo per italiani. Ogni venerdì dalle 18 alle 20 su Radio Contrabanda 91.4 FM a Barcellona. Zibaldone. Zibaldone. E buon pomeriggio a tutti, ben ritrovati qui sulle frequenze di Radio Contrabanda per una nuova puntata di Zibaldone. Come sapete io sono Steven Forti e questo è un programma in italiano non solo per italiani, in onda tutti i venerdì pomeriggio dalle 18 alle 20 sulle frequenze di questa storica radio libera barcellonese. Ci potete ascoltare sui 91.4 FM sul litorale catalano, in streaming all over the world, alla web di Radio Contrabanda. E poi, importantissimo, i podcast che insomma ormai vanno di moda e noi è da 15 anni che facciamo i podcast, insomma adesso siamo anche noi, non abbiamo più anticipato i tempi, anzi l'abbiamo fatto, però insomma adesso siamo in linea con i tempi, siamo fedeli alla linea. zibaldone.contrabanda.org, dove potete scaricare i podcast del nostro programma dall'inizio praticamente dello scorso decennio, degli anni 10 del XXI secolo. Oggi 24 febbraio, una puntata davvero particolare, ma davvero particolare, non vi dico nulla di più, lo capirete, insomma qualcosa capirete con la prima canzone che sta per cominciare, ma soprattutto poi ci sarà il Banzo che ce lo spiegherà per bene. Sentitevi un po' questo pezzo che è molto particolare, molto molto molto strano. Non vi dico chi è, io non la conoscevo, ecco, forse state capendo qualcosa, ma in realtà non è proprio così. Vabbè, vi domanderete, e con tutte le buone ragioni del caso, ma qui c'è stato un errore, no? Un po' di casino. Cos'è che hanno fatto quelli di Zibaldone questo giro? Hanno fatto un mix di due canzoni? Beh, me lo domando anch'io, e per questo do subito il benvenuto al nostro ergonomico Banzo, ergonomico più che mai. Banzo, bentornato a Zibaldone. Buon pomeriggio Steven, buon pomeriggio a tutti. No, non lo abbiamo fatto noi di Zibaldone, io personalmente non ne sarei capace, ma forse il nostro Fausto, che sentirete a breve, sì. Ebbene, questa è un po' la canzone che vuole essere il manifesto e l'introduzione a una puntata molto speciale che ha per titolo Stati d'alterazione, e appunto avrete notato che già qui c'era qualcosa di strano da come avrebbe dovuto essere, perché un mashup fra infatti, i Beatles e i Beach Boys, quindi avete riconosciuto a momenti alterni. Effettivamente, insomma, due canzoni molto conosciute, quindi diciamo abbiamo cominciato con qualcosa un po' di facile, no? Sgt. Pepper's e Wouldn't It Be Nice, ossia insomma due canzoni della fine degli anni 60 che hanno fatto ballare generazioni di persone. Esatto, forse due dei dischi più iconici della musica pop di quel periodo, disco dei Beach Boys 66, disco dei Beatles 67, però ecco, talmente iconici da immaginarli insieme, ecco, e qui diciamo che sarà un po' il leitmotiv della prima parte della puntata, che sarà concentrata sui mashup, cioè mescolanze di due brani diversi. Diciamo la forma più semplice è la linea vocale di un brano e la base musicale dell'altra, anche se poi ci sono vari livelli di intersezione, come avete sentito in questo caso. Poi ci lanceremo in altri esperimenti che spiegheremo meglio più avanti. Comunque la caratteristica è che in gran parte non si tratterà di cover, ma di manipolazioni dei brani, cioè di lavori di editing. Poi ci sarà anche qualche cover, ma rientra un po' nel concetto quasi di meme internettiano, poi lo spiegherò meglio se ci sarà modo, che secondo me le rende queste cover più vicine alle altre manipolazioni che alle cover propriamente dette, che sono rifacimenti pure semplici di altri brani. E sarà un viaggio veramente, diciamo, stordente, lisergico. Ascolta Banzo, è importante anche dire, anche se ai più e anche al sottoscritto non dicono nulla, anche gli autori di questi lavori, no? Di questi mashup in questo caso. Esatto, cominciamo con questo, che è un mashup di Clayton Counts, che ha avuto anche una carriera nel gruppo di musica sperimentale Bull of Heaven. Forse più che sottolineare l'autore, è anche interessante la vicenda di questo disco, perché poi il brano è tratto da un disco intero, cioè un mashup brano per brano dei due dischi sopracitati. Con Counts, che lo carica sul suo blog e poi riceve una richiesta formale della EMI di rimuoverlo e anche di... perché qui c'è un problema, i mashup e il copyright sarà un tema che tratteremo in modo molto tangenziale. Io lo vedo come un'espressione artistica, però diciamo che da un punto di vista abbastanza stretto e economico, effettivamente si tratta di un uso non autorizzato. Comunque Counts alla fine non fornì gli indirizzi IP degli utenti che avevano scaricato i mashup, come gli era stato richiesto dalla EMI, poi rimosse le canzoni, le rese accessibili in altro modo. E qui appunto abbiamo già annunciato quello che è un po' l'elefante nella stanza quando si parla di mashup, cioè le difficoltà della legge del copyright. Assolutamente. Noi andiamo subito con una seconda e poi insomma vi presentiamo anche l'altro partecipante a questa puntata, il nostro Fausto De Salvia, però lo introduciamo con un pezzo molto italiano, visto che lui si trova in Italia. Non vi dico chi canta, lo scoprirete solo vivendo, ma soprattutto ascoltando questa canzone. We'll be right back. sì, c'è molta felicità nell'aria, anche se la base è molto dark, direi. Avete riconosciuto Albano e Romina, ma era accompagnato da Moderat. Felicità Moderat è il titolo. Comunque, prima di tutto voglio dare il bentornato anche al nostro Fausto De Salvia, che ci accompagna in questa puntata, dove tra l'altro sarà anche coprotagonista, ma non diciamo nulla di più. Fausto, bentornato a Zibaldone. Grazie Steven, buonasera a tutti, perché ormai il pomeriggio si sta avviando alla sera. È sempre un piacere essere con voi in questi speciali monotematici, in questo caso poi pluritematici. E niente, abbiamo fatto lo speciale su Sanremo, in questo caso andiamo su Sanremese spinto, però, però incrociato, in questo caso c'è l'elettronica tedesca, quindi direi che questo mixer, questo mashup è realizzato dai PSNZZT, non so se l'ho pronunciato bene, ma un nome poco commerciale, direi. Molto questi mashupatori della provincia di Reggio Calabria, e comunque sono molto attivi su Facebook, e quindi riescono ad incrociare in modo molto interessante la produzione sanremese con invece l'elettronica che piace a noi, quindi direi che siamo a un livello che io non ho mai raggiunto. Adesso Enrico mi voleva adularmi, però in realtà come mashupatore ho avuto una carriera molto molto limitata, quindi poi ne parleremo eventualmente più avanti. Eh sì, dopo ci torniamo. Banzo, personalmente Steven, volevo solo aggiungere che per me ormai questa è la vera musica di felicità. Io non mi ricordo più com'è l'originale, cioè mi viene in mente Moderat ormai dopo tantissimi ascolti di questo mashup, che è opera di genio, onestamente. Sì, sì, è un bel pezzo, è un bel pezzo. Noi andiamo avanti, Banzo, lancia tu il prossimo brano, perché rimaniamo un po' in linea in fin dei conti tra qualcosa che ha a che vedere un po', diciamo, con l'elettronica, se vuoi, e con un pezzo invece più non sanremese, ma molto sanremese in realtà. Beh, diciamo che qui è sempre forte la tentazione di lasciare il gusto della scoperta all'ascoltatore, quindi mi limiterò a dire che è stata la canzone che mi ha spinto a imbastire questa puntata, è uno dei vertici più alti che vi faremo sentire oggi. Godetevelo e riconoscerete quasi subito i due interpreti. Ma sì, io direi che proprio non è difficile, soprattutto uno dei due. Eccola qua. vabbè, insomma, l'avete riconosciuta, direi, Se mi lasci non vale, ma è Se mi lasci non Miles, perché c'è anche Robert Miles con la famosissima Children di ormai praticamente 30 anni fa, era il 1995, Banzo, ma insomma capisco che da questo pezzo è partito un po' tutto. Sì, è partito tutto da qui, perché siamo di fronte a una collisione di senso talmente spettacolare che non poteva altro che ispirare grandi cose. E secondo me questo è un po', è un esempio validissimo, anche le altre canzoni hanno esempi validissimi, però è qui secondo me che si vede con grande chiarezza il senso del mashup, che è far collidere due pezzi di immaginario pop che non hanno nulla a che vedere l'uno con l'altro, perché effettivamente finora vi abbiamo fatto ascoltare mescolanze di cose assolutamente disparate e che si sarebbero associate estremamente a fatica, ed è il bello di questa espressione artistica. Ma cedo la parola a Fausto per rendere i dovuti onori all'autore di questa perla. Beh, perché infatti questa è opera di R, questo fantomatico Dino R, ispirato alla nota camicia con i baffi degli anni Ottanta, e in questo caso Dino R è l'alter ego di Carlos Valderrama, che a sua volta è alter ego di Gaetano Scognamiglio, il cantante tastierista dei Fitness Forever e da tanti anni in tour con Calcutta, per dirci. Quindi lui come alter ego per i suoi remix ha il Mixed by R. Vabbè, mica male, mica male. Andiamo ad ascoltarci un altro brano, perché troveremo anche un altro artista molto famoso associato a un altro molto famoso. Insomma, non dico altro, andiamocelo a sentire, perché insomma questo è quello di che dobbiamo fare quest'oggi, andarci a ascoltare queste cose che sono molto particolari. Go, go, go, go, shorty, it's your birthday. We're gonna party like it's your birthday. We're gonna sip a party like it's your birthday. And you know we don't give up, it's not your birthday. You'll find me in the club, bottle full of bug. Mama, I got what you need if you need to fill a buzz. I'm in the habit of sex, I ain't into making love. So come give me a hug if you're into getting rough. You can find me in the club, bottle full of blood, mama, I got what you need if you need to fill a buzz. I'm into having sex, I ain't into making love. So come give me a hug, you're into getting rough. When I pull up out front, you see the Benz on dub. When I roll 20 deep, so it's drama in the club. Yeah. Now that I roll the tray, everybody show me love. When you sell like Eminem, you get plenty of groupie love. Look, homie, ain't nothing changed, rolls down, G's up. I see exhibit in the cutting, man, roll the trees up. Watch how I move from the step before I play up pimp. Been hit with a few shells, but I don't walk with a limp. In the hood, in the lady saying 50, you hot. They like me, I want them to love me like they love pop. But I live in New York, for sure, they tell you I'm local. Yeah. The plan is to put the rap game in a chokehold. I'm full of focus, man. My money on my mind. Got a meal out the deal, and I'm still in the grind. That shorty says she feeling my style, she feeling my flow. A girl from where they buy, and they ready to go on the game. Bottle full of bug, mama, I got what you need if you need to fill a buzz. I'm in the habit of sex, I ain't into making love. So come give me a hug if you ain't getting rough. You can find me in the club. Bottle full of bug, mama, I got what you need if you need to fill a buzz. I'm in the habit of sex, I ain't into making love. So come give me a hug if you ain't getting rough. My flow, my show brought me the dough. That bought me all my fancy things. My crib, my cars, my clothes, my jewels. Look, homie, I done came up and I ain't changing. You should love it way more than you hate it. Oh, you mad? I tell you, you be happy I made it. I'm that cat by the bar, toasting to the good. Like, moved out the hood, now you tryna pull me back. Right. My joint get the bumping in the club, it's on. I'm with my eyes, your chicks, if she smash, she gone. Hit the roof on fire, man. Just let it burn. Talking about money, homie, I ain't concerned. I'ma tell you what bass told me, cause go ahead, switch the style up. And if they hate, then let them hate them, watch the money pile up. Ma Banzo, io non so se i nostri ascoltatori qui hanno capito bene di che mashup si tratta, La canzone del sole di Lucio Battisti mixata con In the Club di 50 Cent, noto rapper americano. Insomma, c'era uno che rappava, era lui, mentre il giro di chitarra era inconfondibile. E continuiamo col discorso delle collisioni improbabili, perché anche qui, diciamo, associare questo immaginario rap a Battisti è piuttosto ardito. Ma d'altronde non vi annunciamo di cosa si tratta il prossimo brano, perché sarà un altro accostamento arditissimo, Anticipo solo che sarà presente un altro caposaldo del Nazional Popolare Italiano. Eh sì, che ha a che fare con Sanremo, vabbè, lo scoprirete. A proposito di Battisti, la prossima settimana ci sarà uno speciale zibaldoniano su Battisti nell'ottantesimo della sua nascita, che ricorre proprio tra pochi giorni. Andiamo però con quest'altro mashup e vediamo che cosa ci ha proposto il Banzo. Insomma, è bello, bel pezzo questo, di dire la verità, Banzo. Tu sei contento non tanto per Gianni Morandi, che avete riconosciuto con In ginocchio da te, ma soprattutto immagino per il System of a Down Toxicity. Esatto, System of a Down, gruppo cardine della gioventù mia e di molti. Un altro accostamento impossibile anche a livello proprio temporale, perché Gianni Morandi 64, System of a Down 2001. Risultato straordinario e primo di tre mashup che vi facciamo ascoltare dal canale Brooks Music Shaker. Non sono in grado di darvi molte informazioni, penso che sia italiano, perché per mescolare così materiali italiani, ecco, bisogna probabilmente essere nati nella penisola, forse è di cinese, chi lo sa. e comunque propone materiali di altissima qualità, come sentiremo già dal prossimo pezzo, che è totalmente immerso negli anni 90. E vabbè, allora ce l'andiamo subito a sentire, Banzo, e vediamo chi è, anzi lo facciamo scoprire ai nostri ascoltatori. C'è storia in questa città, nessuno si diverte, mai si divertirà. Lascia perdere tutta questa gente e non credere, di te non gli importa niente. Sono sempre pronto a giudicare tutto quello che fai, come ti vesti, dove ti incontrerai. Ma non te la prendere, loro sono fatti così. Devi solo credere che un giorno te ne andrai di qui. Scendi nella strada, balla e butta fuori quello che hai. Fai parte del ritmo, quello giusto. Dati una mossa e poi tieni il tempo. Con le gambe e con le mani tieni il tempo. Non fermarti fino a domani. Tieni il tempo. Vai avanti. Se non ci credi, sono quasi belli per chi sa provare i colori dentro nella testa. E allora vattene fuori, che sta per cominciare la festa. Non ti lasciare andare se non ti vuole più. Adesso sei la fila, ma non sa che tu stai quasi per decollare. Quando volerai, faranno a gara, se fare un giro gli farai. Scendi nella strada, falla e butta fuori quello che hai. Fai parte del ritmo, quello giusto. Dati una mossa e poi tieni il tempo. Con le gambe e con le mani tieni il tempo. Non fermarti fino a domani. Tieni il tempo. Vai avanti e vedrai. Tieni il tempo. Il ritmo non finisce mai. Tieni il tempo. Beh, l'avrete riconosciute entrambe, Banzo, tieni il tempo, gli 883, la voce inconfondibile di Max Pezzali. Erano i tempi in cui c'era ancora, se non sbaglio, il grande Repetto, e gli altri ovviamente erano gli Offspring, 1994 e 1995. Sì, esatto, tranne che forse Repetto era già uscito, ma dovremmo controllare, era uscito a comprare le sigarette. Non è più tornato. Appunto, dicevo, non è più tornato, diciamo, eravamo in pieni anni 90 e forse un accostamento meno ardito di altri, però comunque abbastanza sorprendente. Questo è un altro mashup di Brooks Music Shaker. Adesso vi proponiamo il terzo dei suoi mashup e poi continuiamo ancora per un po' su questa falsa riga, e anche questo è veramente molto interessante. E dai, andiamocelo a sentire. Qua lo riconoscete, una canzone la riconoscete subito. Tiger Man. radio nella notte va, se lo incontri gran paura fa, il suo volto ha la maschera tigre. Tigre. Tigre. Misteriosa la sua identità, è un segreto che nessuno sa, chi nasconde quella maschera tigre. Tigre. Tigre. Ma l'uomo tigre che lotta contro il mare, combatte solo la malvagità, non ha paura, si batte con furore, e ogni incontro vincere lo sa. Ha tanti amici e grande la bontà, ma con nemici. Lui sul ring è formidabile, nella lotta è temibile, il tigre. Tiger Man. Tigre. Tiger Man. Tigre. Tiger Man. Nella tana delle tigri lui più nascosto dentro piano, poi con sorpresa sale tutti il tigre. Tiger Man. Io direi che insomma qui vedo un Sylvester Stallone un po' vestito da tigre. E qui c'è, si unisce diciamo all'immaginario dei maschietti di inizio anni 80, perché abbiamo da una parte l'uomo tigre, quindi il cartone violento per eccellenza dell'epoca, non era ancora arrivato Kenny Guerriero in Italia, quindi insomma l'uomo tigre vinceva ancora per distacco, e invece la colonna sonora di Rocky 3, quindi... Fra l'altro sono brani proprio incisi più o meno negli stessi anni, e in questo caso Brooks ha avuto vita facile a proporci un mashup super energico, come abbiamo avuto modo di sentire, ecco. Sì. Beh, ma sono tutti energici, anche il prossimo, in questo caso non stiamo in Italia, andiamo un po' in altri continenti, però ce lo godiamo perché anche questo è molto riuscito, sentitevelo un po' qua. I never met a girl who made io questa non so se i nostri ascoltatori l'hanno riconosciuta, anzi le due canzoni, Get Ready for the Grave, Banzo, ossia ora sei tornato, ci sei, sei con noi? Rieccomi, ero andato a comprare le sigarette con Repetto, io peraltro non fumo, e Repetto era comunque uscito dagli 883, per chi avesse ancora il dubbio. Allora, qui abbiamo un mashup dei Black Sabbath, Children of the Grave 1971, con The Temptations, Get Ready 1966, e diciamo abbiamo il proto heavy metal dei Black Sabbath con un gruppo vocale della Motown, una combinazione assurda che funziona con un grado di perfezione sovrannaturale. Eh sì sì, vabbè, sono due grandi brani e è venuto un bel mashup. Noi adesso andiamo a ascoltarcene un altro, rimaniamo sempre dall'altro lato dell'Atlantico, sentitevi qua questa bel mix. Beh, questo già la riconoscete secondo me, e forse anche questa. Ma io devo dire che forse questa è la canzone che più mi, il mashup che più mi è piaciuto di tutti, Banzo. Vabbè, qui si sono riconosciute entrambe le canzoni con facilità, no? Billie Jean on the Storm. Sì, abbiamo Billie Jean di Michael Jackson, ovviamente Riders on the Storm dei Doors, per un mashup anche questo riuscitissimo di Amora Boy, non so chi sia, ma tant'è. Mentre volevo segnalare che il precedente era a cura di Bill McClintock, quello Black Sabbath Temptations, perché prima non l'ho detto, è sempre importante rendere il giusto omaggio agli autori di queste genialate. E col prossimo brano direi che si avvia verso la conclusione la nostra selezione di mashup e siamo pronti ad addentrarci verso mari ancora più procellosi. Eh sì, intanto però andiamo a ascoltarci questo bel mashup con una canzone che a me piace particolarmente, non è quella che state sentendo ora, è questa. Il Beh, mica male anche questo mashup che tra l'altro insomma si è riconosciuto subito. Gli Eurythmics, Sweet Dreams Are Made of These, Seven Nation Army White Stripe Banzo, no? Mica male, eh? Sì, e anche questo molto imprevisto e molto riuscito, a cura di DJ Poli, anche qui non chiedetemi di più, Poli con la Y. Poli senza Y, sì. in Trentino è un supermercato, ecco, non so se ha a che fare con lui. No, non penso, e non è neanche Poli Jean Harvey, quindi non sappiamo veramente, anche perché con due L, non sappiamo veramente chi sia. Ma con questo potremmo dichiarare chiusa la nostra sezione di mashup, o forse no, c'è ancora un colpo di coda. Andiamo a vedere, cosa lanciamo quindi ora, Banzo? Lanciamo qualcosa di brevissimo ma sconvolgente. Dai, ce l'andiamo a sentire, eccolo qua, pochi secondi. Ma qui in realtà avete sentito in questo brevissimo mashup del dottor De Fausto, insomma, quindi chiamiamo subito in casa il protagonista Fausto De Salvia, due artisti che avevamo già trovato, Albano e Michael Jackson. Eh beh sì, perché gli spunti sono infiniti. Anni fa ho provato anch'io a fare il mashup, come dicevo prima, ma diciamo che mi sono fermato quasi subito a 30 secondi, quindi, perché davvero ci vuole davvero una tecnica, un senso del ritmo, insomma improponibile per il sottoscritto, però dico dai, proviamoci, allora dico proviamo a fare rincontrare Albano e Michael Jackson, che avevano litigato, no, con una causa che andò avanti per diversi anni di plagio, dico mettiamoli finalmente insieme, e questo è stato il risultato. Non male, non male. Albano, Michael Jackson nel Criminal, ovviamente. Andiamo con un altro dei tuoi mashup, dei tuoi brevi e sintetici telegrafici mashup. Non vi dico chi è, vediamo se lo scoprite. Vado. Ma questa è un po' particolare, Fausto, perché in realtà non è un mashup propriamente detto, perché c'è solo un artista, vado al massimo, che si è riconosciuta di Vasco Rossi, no? In questo caso vado al minimo, vista la durata, perché veramente siamo cortissimi. Sono proprio dei corti. Io, come sai, sono un grande appassionato dei corti di Lester Tese. Mi sono ispirato ovviamente allo stile di Rocco Tanica, di tutte le produzioni che ha fatto negli ultimi, ormai sono più di 20 anni, se andiamo verso i 30, oltre alle ultimissime ho sempre fatto anche dei corti musicali, e questi sono i risultati, quindi adesso ne proponiamo un po'. Qualcuno l'ho messo sul mio canale YouTube, il canale meno frequentato del web, che è un titolo che ci tengo veramente a difendere, con contenuti diciamo che con queste 10-15 visualizzazioni che dal tanto diventano 20, e quindi ci andiamo a sentire qualcos'altro. Dai, la maglia nera, la maglia nera del Giro d'Italia, esatto. Andiamocene a sentire subito un altro, non vi dico chi ovviamente. Seconda stella destra, che non c'è. Forse questo ti sembrerà che non c'è. Yep, son d'accordo con voi che non c'è. E non è neanche un gioco per te. Sono d'accordo con voi, niente c'è, non c'è. Beh, diciamo che questo povero Edoardo Bennato, insomma, secondo lui non c'era proprio nulla, no? Sì, diciamo che va oltre lo future dei punk, qui siamo nel 1980, andiamo a dire che non c'è nemmeno il presente, non c'è nulla. Però c'è anche però un bellissimo assolo di armonica di 3 secondi, veramente speciale. Quello c'è. E adesso andiamo a trovarcene un altro di artisti molto conosciuti in Italia, sentitevelo qua. non l'ha detto. No, parla moglie. Chi non lavora non ce la fa più contro di me. Chi non lavora a lavorare. E un grosso pugno in faccia mi arrivò. E in sciopero anche lui. Ma come babo va? C'è il caos, babo va. Non so più, babo va. Se non sciopero, dammi l'aumento, signor padrone. Così in casa tua E vabbè, l'avete riconosciuto ovviamente, chi non lavora non fa l'amore, Fausto, Adriano Celentano, però anche qui ovviamente il corto ha modificato molte cose. Ma sì, diciamo che ho cercato di estrarre il senso ultimo del messaggio di Celentano, che appunto è questo inno al crumiraggio, quindi sì, il crumiro sì. Che giustamente per ottenere dice dammi l'aumento signor padrone, e con questo invito rivolto ai suoi colleghi di chi non lavora a lavorare, quindi direi che rientra tutto nel messaggio di Celentano, semplicemente più esplicitato, diciamo così. Nel prossimo e ultimo dei tuoi corti passiamo dall'Italia, andiamo invece nel Regno Unito. E vabbè, l'avete riconosciuta la voce inconfondibile di David Bowie, Fausto, e qui insomma si è andato a trovare qualcuno nel Regno Unito, no? Esatto, alla fine in questo caso non essendo bravissimo con l'inglese dico vabbè cerchiamo di togliere le battute, quindi di dare questo effetto cacofonico e un ritmo assolutamente inedito al pezzo, il pezzo è Rebel naturalmente ultra noto e quindi è diventato un AO tramp con questo accenno romanesco che non so come, ma ce l'ho messo, quindi... Sì, ci sta. Esatto, noi rimaniamo nel Regno Unito e troviamo un nuovo brano, non vi dico che artista è, lo scoprirete, forse ce la farete, e non vi dico nemmeno di che si tratta esattamente, dopo ce lo spiegherà il Banzo, perché qui entriamo in una nuova categoria, per così dire. Quindi, insomma, state attenti e ascoltatevi questo brano e vediamo se ci capite qualcosa. Io all'inizio non ci ho capito proprio niente, Banzo, svelaci l'arcano perché insomma è un po' inascoltabile questa cosa e quindi vorrei capire che cosa ci stai proponendo. È volutamente inascoltabile, credo, perché si tratta di un file che contiene tutte le canzoni dei Beatles suonate contemporaneamente. Quindi soprattutto nella fase iniziale, ma quando dice Wikipedia si tratta di 188 brani originali e 25 cover. Quindi soprattutto all'inizio è sostanzialmente cacofonia pura, praticamente noise giapponese, e poi man mano che le canzoni finiscono rimangono solo quelle più lunghe ne rimangono alcune e diciamo l'effetto è cacofonico, è spiazzante, ma è anche in qualche modo stranamente suggestivo, si riconosceva senz'altro Hey Jude in sottofondo. Eh sì, quello è vero, quello è vero. Ascolta, qui entriamo in una nuova sezione che variazioni estemporanee, in che senso appunto? Perché c'è un po' di tutto? Esatto, ed erano anche delle modifiche che non riuscivo a riunire in un'unica categoria, quindi ho creato questa sezione che appunto è definita come estemporanea, anche perché questo file con tutte le canzoni dei Beatles era sostanzialmente inaccoppiabile a qualunque altra cosa, però per non confondervi, ecco, dopo avervi fatto sentire tante canzoni dei Beatles, alla volta ve ne facciamo sentire una sola in un modo particolarmente ordinato e metodico. Beh dai, ce la andiamo a sentire allora. Beh, a me è un po' l'effetto che fa Banzo, dirti la verità, è come quando insomma uno ha un giradischi in casa e la puntina del vinile si incaglia e insomma non va avanti, no? È un po' questo alla fine l'effetto. Sì, ma c'è un trucchetto, semplicemente in questo caso tutte le parole erano in ordine alfabetico. Sì. Ebbene sì, c'è gente che si dedica a fare queste cose, perché ci sono anche altri esempi di questa manipolazione su internet, per esempio su YouTube si può trovare anche Africa dei Toto con tutte le parole in ordine alfabetico, e effettivamente sembra un disco che si inceppa, però non è gradevolissimo all'ascolto, ma volevo proporlo per il livello di assurdità raggiunto, soprattutto dopo il mix totale dei Beatles, che era cura di Arbol, non l'avevo detto, mentre questo è tratto dal canale John Lino Official, quindi non so, una manipolazione del nome John Lennon a sua volta. E sì, comunque ci sono anche altre canzoni in ordine alfabetico, è veramente bizzarro. E con la prossima invece diciamo che si interviene in modo drastico sul ritmo, Steven. Allora ce l'andiamo a sentire, non vi dico che ovviamente scopritelo da soli, ma secondo me ce la fate. Direi di sì, no? Con questo inizio. You don't Banzo, il gioco è un po' un altro, no? Perché effettivamente a questo punto già non si sente più nulla, sembrano delle voci ancestrali o di alieni che vengono da Urano o Saturno. In realtà sembrano i Chipmunks, non so se li ricordi. Hai ragione. Gli scoiattoli che cantavano in falsetto, perché effettivamente qui, in questa elaborazione di Roxanne dei Police a cura di Ian AC, praticamente ogni volta che viene pronunciato il nome femminile, titolo della canzone, il ritmo aumenta del 10%, alla fine parossistico. E anche di questa variazione, di questo meme, perché ormai questi per me sono meme in musica, abbiamo altri esempi, come per esempio potete cercarvi Eia degli Outcast, accelerata del 10%, ma la sentiremo dopo in un'altra versione. Chiudiamo questa sezione estemporanea con un classicissimo degli anni 80, anche qui un breve frammento soltanto. E allora ce lo andiamo a sentire, vediamo se lo riconoscete. Secondo me ce la dovreste fare, perché è un pezzo davvero molto molto famoso. Beh, ma dico, povero Rick Astley, che comunque insomma aveva una bella voce, almeno in questa canzone, era il 1987. Qui Banzo cosa hanno fatto? Hanno autotunes a manetta, direi. Sì, allora, innanzitutto vorrei dire che Never Gonna Give You Up è una delle canzoni più manipolate in assoluto, secondo me, insieme a Africa dei Toto e Take On Me dei Ha-Ha, le sentiremo tutte. Sì, in questo caso, in questa elaborazione a cura di Plufnub, che è un canale pieno di stranezze di questo tipo, tutte le allora la voce è tutta in do, sostanzialmente è mononota, sostanzialmente viene livellata, questo effetto un po' robotico, ma se ci pensate bene è lo stesso tipo di esperimento che hanno fatto ieri le storie tese sulla canzone mononota a suo tempo, con tutta la parte cantata sulla stessa nota, solo che in questo caso era stato usato l'autotune per ottenere questo effetto. Ci sono anche alcuni altri esempi di questa modificazione, addirittura con la parte musicale tutta in una nota sola. Vabbè, incredibile. Ascolta, noi adesso andiamo verso un altro piccolo apartato, come si dice in Spagna, un'altra piccola sezione. But Every Other Beat Is Missing. Introducicela tu e poi andiamo a ascoltarci il primo brano. No, guarda, lasciamo la teoria per dopo, facciamo sentire il primo brano e così gli ascoltatori si fanno un'idea più chiara, secondo me. Dai, andiamo subito, al volo, al volo. Feeling glad, sunshine in a bag, useless, not for long, future coming up. Happy, feeling glad, sunshine in a bag, useless, not for long, future coming up, coming up, coming up. Yeah, finally, out of my cab. Time for me is counting no eggs. Shouldn't be there, shouldn't be scared. Good at repair, under each snazzable. Think so I can panoramic, make it all make pick and choose. All you chicks and think is really pitchy down in a like you look, you think it's mystical, spiritual. Here's a new decure to lifeless. To this shit for what priceless. To you to on the like it, righteous with like it. Come mess you with happy, feeling glad, sunshine in a bag. You slow, not for long, future coming up. Happy, feeling glad, sunshine in a bag. You slow, not for long, future coming up, coming up, coming up, coming up, coming up. essence, the bout that you allow me to style like a rhythm. You don't, that's up in them. Tree, every cloud, and see with your eye. Structure and dimension, and this fucking ends up sucked into your little soul. Not as nothing, you from me as a guy. Y'all can see me now, see with your eye, see with your mind. Yeah, nah. So round with run mentor, rhyme so much, remember what the I brought you, cause the law is law. Feeling since art was dead, wheeling, remember. All in your head. Happen, feeling glad, touch ya. In a bag, you slide out for long. Future coming up, feeling glad. Ma devo dire che questa è un po' più accettabile, dai Banzo, un po' più orecchiabile, anche se si capisce qui che c'è un lavoro dietro, Sì, allora, qui cominciamo con una serie di manipolazioni a cura di Adam Hammond, che ha un canale molto interessante e anche specializzato in questo tipo di modificazione. Every other beat is missing, cioè su un calcolo di 4 battute, diciamo, mancano la prima e la terza, o la seconda e la quarta, quindi la canzone viene dimezzata e ovviamente i ritmi si sincopano notevolmente, con un effetto abbastanza sconcertante che però non è solo distruttivo e cacofonico, ma paradossalmente apre nuove possibilità alla canzone a livello ritmico, come sentirete anche nel prossimo esempio, che è la già menzionata EIA degli Outkast. E allora ce l'andiamo a sentire, eccola qui. Sensazione è un po' quella di Coitus Interruptus, non so tu che ne pensi, Banzo. È bello perché comunque abbiamo impressioni diverse. A me piaceva moltissimo per il ritmo involontariamente ballonzolante che si creava, pezzo straordinario degli Outkast, appunto del 2003, secondo me uno dei classici pop dopo il 2000, e anche qui come non l'avevate mai sentita. E io dico che ormai si è capito in cosa consiste questo trucchetto del "but every other beat is missing", ma visto che la menzionavo prima, vi facciamo sentire anche un assaggino di Africa dei Toto, perché è una canzone ultra memata e non poteva mancare. Dai, allora ce l'andiamo a sentire un frammento. I hear the taco night, she hears the spurs by AM. She's in 12 nights, moonlit with like the starlight between AM. I slow man away. Open the funnel for guns already. He took me as a hurry boy waiting there. Must do night, Kilimanjaro rises, the bliss of day. I saw what's designed, brightened up, lingered up. A me qui, Banzo, la sensazione che mi dà è un po' come quando si ascoltavano le musicassette, ecco, sai, e ogni tanto di colpo passavo avanti, o addirittura meglio, a volte i CD, quando non funzionava, non si puliva bene il lettore CD, no? E ti saltava avanti il CD di colpo di qualche secondo. Potrebbe essere, con l'unica differenza che qui è ultra metodico, nel senso che veramente non si sgarra di un tempo, perché è una sì e una no, una sì e una no. Ormai avete capito come funziona questo tipo di giochino e adesso ve ne proponiamo brevemente un altro. Non vi anticipiamo in cosa consiste, forse ve ne accorgerete, la canzone è assolutamente inconfondibile, quindi concentratevi sulla manipolazione. Dai, andiamo a sentire questa manipolazione, un'altra di questa serata. Molta febbre del sabato sera, ma direi a questo punto anche del venerdì pomeriggio, visto che siamo qui a Zibaldone sempre in questo orario. Banzo, qui insomma era più orecchiabile, però c'è un po' di manipolazione, spiegala un po' ai nostri ascoltatori. Esatto, qui non manca niente, non vengono eliminati passaggi una volta sì, una volta no, semplicemente la seconda e quarta battuta sono invertite, quindi diciamo che effettivamente per quello si sentono quei leggeri sfasamenti, come per esempio sul famosissimo, che adesso non vi riprodurrò per pietà verso di voi, però effettivamente si sentiva che c'era una leggera differenza, un leggero sfasamento, e queste cose personalmente mi mandano in brodo di giuggiole. Però prima di darvi un altro velocissimo esempio di questa tecnica di manipolazione e migrare su altri lidi, passo la parola a Fausto, che ha una segnalazione da farci. Esatto, una piccola segnalazione. Forse non tutti sanno che anche in originale Staying Alive è opera di una manipolazione sonora. In questo caso la base della batteria è ripresa, sono due battute di Night Fever riprese e copie incollate all'epoca con i mezzi dell'epoca per creare questo ritmo così preciso. I Bee Gees avevano il batterista indisposto in quel periodo e quindi rimediarono così, e curiosamente indicarono sul disco come batterista in questo brano un tale Bernard Loop, ma ovviamente inteso come Loop per questo gioco, ovviamente non è mai esistito, e a quanto pare aveva ricevuto anche molte richieste di lavoro, ma purtroppo non ha potuto onorarle. Ecco. Beh, non gli è andata male. Banzo, noi andiamo a sentirci un'altra manipolazione simile, non vi diciamo che canzone è, dopo ce lo spiegherai tu. Ma secondo me la riconoscono già i nostri ascoltatori. I wanna my fake it lover. Never ask for a ship man's air. Never, if you wanna be lover, be mine. You have got here back to picking up that easy piece to the wheels. Comunque io, Banzo, sono abbastanza scioccato dal sapere che c'è tanta gente che ha tante ore da dedicare a fare queste cose qui. Secondo me è parte della bellezza di internet, cioè c'è proprio un trionfo del superfluo, nel senso che non sono elaborazioni necessarie, però a me fa piacere sapere che esistono. In questo caso, insomma, era Wanna Be delle Spice Girls. Questo speciale mi ha anche permesso di abbattere delle barriere musicali che non sapevo neanche di voler abbattere, perché le Spice Girls di Baldone potevano entrare solo manipolate. E molto brevemente, la manipolazione di Bee Gees era a cura ancora di Adam Hammond, mentre questa è a cura di Steve Baddack, che ha vari di questi esempi nel suo canale. E chiudiamo un'altra sezione, torniamo un po' verso le canzoni più organiche, tutte a cura del grandissimo Oleg Berg, con un trucchetto che vi spiegheremo dopo il primo esempio. E allora ce l'andiamo a sentire, riconoscerete subito questa canzone. Anni 80 a palla, come si suol dire. Devo dire, questa mi sembra più o meno uguale, semplicemente è un po' rovinata. Uno dice, vabbè, ma si sente male, no? Banzo. E invece no, è clamorosamente squillante. E ovviamente the final countdown di Europe, c'è bisogno di dirlo, ma la stranezza stava nel cambio di tonalità. Adesso non mi addentrerò in spiegazioni di teoria musicale che non sono in grado di dare, ma i prossimi brani sono tutti caratterizzati dal cambio di modo, diciamo, se era in maggiore passa minore e viceversa. In questo caso abbiamo un pezzo in minore che è stato virato in maggiore. E il cambio principale è nel mood del pezzo. L'incedere, diciamo, epico e vagamente minaccioso originale diventa appunto quasi giulivo, e a me questa cosa sembra esilarante. Comunque Oleg Berg, il titolare del canale dal quale abbiamo estratto questo pezzo e anche i prossimi, si dedica con un rigore quasi scientifico a questo tipo di stravolgimenti e secondo me sono straordinari. Ve ne facciamo sentire subito un altro che però è vagamente invertito, nel senso che in questo caso passiamo da maggiore a minore. E allora andiamo subito a sentircelo, anche questa è una canzone famosissima. Da maggiore a minore, dicevi Banzo, con questa Take On Me degli Ha-Ha. Ascolta, ma quello che ti volevo domandare è, ma in genere, scusa, tutte queste cose che hai trovato su YouTube, ma quante visualizzazioni hanno? Cioè, voglio dire, detta proprio pane al pane, vino al vino, ma se li incula qualcuno? Sì, sì, ovviamente non si può parlare di successi moltitudinari, però sono comunque delle stranezze che hanno un loro pubblico e io ne faccio parte in pieno. E per quanto riguarda il brano di AA, anche qui vedi come il passaggio al minore causa una certa perdita di slancio, mi verrebbe da dire, come se la canzone fosse contenuta. È un po' ridicola. È comunque. Sì, è come se non la cantassero senza convinzione, l'effetto è molto strano, anche sentiremo nel prossimo un altro effetto molto strano, ma qui torniamo dalla modifica da minore verso maggiore, un brano anche qui notissimo, perché queste le ho scelte famosissime perché così è più facile riconoscerle e identificare la diversità, ecco, del trucchetto utilizzato da Oleg Berg. E allora ce l'andiamo a sentire, qui torniamo indietro di qualche anno rispetto agli anni 80. My head, you are questa devo dire, Banzo, che forse è l'unica che non è, insomma, che non ne esce troppo male, ecco, gli Animals, House of a Rising Sun. Beh, è bello comunque, Steven, perché queste alterazioni causano anche reazioni diverse, perché a me invece sembra molto, molto, molto cambiata, sparisce la drammaticità dell'originale. Ah no, certo, certo. E diventa quasi allegra, che è proprio qualcosa che non si associa a questo brano così denso di pathos. Comunque, per rispondere in modo più dettagliato alla tua domanda di prima, ecco, il canale di Oleg Berg ha quasi 78.000 iscritti, e in concreto questo, il video di questa versione di The House of the Rising Sun ha comunque 294.000 views. Ah, però. Che saranno anche in parte casuali, in parte dovute a fraintendimenti, però secondo me indica comunque che c'è un pubblico di cultori che segue questi esperimenti. Ma proseguirei ancora con questa giostra di emozioni fra maggiore e minore con i brani di Oleg Berg, con un altro super super classico in una versione come non l'avete mai sentita. Andiamocela a sentire, dai, qui andiamo agli anni 70, ma già ve ne rendete conto, eh? Poi venerdì sera, dai, voglio di ballare, insomma, si capisce, dai, sì. Diciamo che dopo un'ora e mezzo di questa puntata di Zibaldone, direi che forse il titolo potrebbe essere anche Come rovinare una canzone, però so che il Banzo si arrabbierebbe. Comunque, insomma, non gli do la parola al Banzo, invece chiamo in causa Fausto con questa ovviamente conosciutissima IMCA dei Village People. Assolutamente, un pezzo che fra l'altro guardavo alla mia età, perché è del 1978, piena epoca disco music, e il testo, come dice all'inizio, traducendolo, dice: giovanotto, non c'è bisogno di sentirsi giù e non c'è bisogno di essere infelici, però con questo fanfara in minore effettivamente è un po' dura, perché vedo che non è così divertente stare la IMCA, almeno non in questo caso, quindi possiamo no. dire che abbiamo veramente girato di senso il brano, ecco. E noi andiamo avanti perché ne troviamo un altro che sì, che vi diciamo chi è in questo caso, la Pantera Rosa, Henry Mancini, però anche questo ovviamente è modificato, sentitevelo un po', vediamo che ne pensate magari, Mm-hmm. ancora ignobili maltrattamenti per anziani incastrati dalla giustizia. Al processo Rubiter, Silvio Berlusconi assolto insieme a tutti gli altri perché non esiste il leader di Forza Italia, sarebbe stato perculato. La solidarietà della Premier Meloni, sono certa della mia innocenza. Prove spettacolari, ma anche ironia e divisioni senza fine. Saranno Stefano Bonaccini ed Elly Schlein domenica prossima a contendersi la segreteria del Partito Democratico per un posto in tribuna. E l'opposizione è tutta da ricostruire. La soddisfazione dei costruttori edili, risultati deludenti per il terzo polo che deve fare i conti con la vita che è andata avanti. Presentata in un bar della provincia di Avellino, la SF23, la nuova Ferrari di Formula 1, dopo 11 anni di sofferenze e fango, si prepara a dare battaglia. Dobbiamo vincere, ma dovete fornirci le armi. Poi insegue e aggredisce il mondiale, lanciandosi dal balcone, ora in gravi condizioni nell'ospedale di Maranello. L'Ucraina è tutta da ricostruire. La Cina annuncia un suo piano di pace che al ritmo di samba attirerà 5 milioni di turisti tra villaggi deserti e combattimenti senza fine. Uno spettacolare carnevale putignano e nell'intervallo lo sfavillante show di Raul Bova e Maria Chiara Giannetta accampati in tendopoli improvvisate. Record per un 29enne di Taggia in provincia di Imperia, centrata dopo quasi 2 anni la tazza del cesso nel bagno di casa, la soddisfazione della madre: ha sbagliato molto, ma noi siamo il mondo libero. E il segretario di Stato americano Blinken avverte, ora deve fare i conti con la vita che è andata avanti. E beh, in una puntata come questa dedicata a alterazioni, mashup, manipolazioni, non potevano mancare banzole ultimissime. E infatti abbiamo anche l'autore delle ultimissime con noi, credo che sia la prima volta che Fausto le può commentare insieme a me e a te, che lo facciamo sempre, ecco. Esatto, è un grande piacere, poi insomma, per difendere i professionisti dell'informazione come facciamo in questo caso mi sembra un'ottima soluzione. Voglio dire, soprattutto è importante che la nuova Ferrari sia stata presentata in un luogo, no, non come al solito a Maranello, insomma, il fatto che sia stata presentata in un piccolo bar nella provincia di Avellino, quindi, come dire, andare verso pubblico. Infatti mi ha sorpreso questa scelta, ma le logiche del marketing odierno sono incomprensibili. Ma visto che sei qui, Fausto, parlami della relazione fra la Cina e la samba, perché c'è questo piano di ricostruzione per l'Ucraina a ritmo di samba da parte dei cinesi. Non ho capito bene in che modo questo ballo, diciamo, si abbini alla tradizione orientale. Effettivamente non lo so, però ti dirò, mi conquista questa idea di 5 milioni di turisti che tornano in Ucraina e la ricostruiscono con uno spettacolo carnevale putiniano, però, quindi comunque quindi diciamo che può mettere d'accordo tutti questo piano di pace, diciamo, soprattutto con lo sfavillante show di Raul Bova e di Maria Chiara Giannetta, anche se accampati in una tendopoli, però comunque... Non vogliamo sapere come ci sono finiti. Poi possiamo dire, ecco, Berlusconi un po' come l'isola di Edoardo Bennato, non esiste, esatto. Quindi forse per tutti questi anni abbiamo vissuto in una realtà alternativa. Chiuderei in gloria, se Steven me lo permette, menzionando questo 29enne senza nome che finalmente dopo quasi 2 anni c'entra la tazza del cesso. Questo è anche il segno che noi siamo il mondo libero, effettivamente. Forse siamo liberi di pisciare fuori, ma a volte anche di pisciare dentro, ecco. Assolutamente. È un segno della civiltà occidentale, insomma, questo potere, questo fatto che non ti arresti dopo che hai pisciato fuori da... Quindi non ti arrestano, e quindi questa è una fortissima testimonianza della nostra libertà. Io sono veramente affranto per la madre, che vita d'inferno deve aver passato in questi 2 anni, però è un caso che, diciamo, era un po' uscito di scala se addirittura il segretario di Stato americano ha dovuto esprimersi al riguardo, perché insomma sembrava una cosa, diciamo, di importanza piuttosto locale essere buoni, ecco, la casa di quella famiglia. Noi andiamo avanti, ragazzi, perché ci rimane poco tempo e perché abbiamo ancora alcuni brani, una nuova sezione. Banzo, io lancerei subito il brano, non diciamo di chi è, e poi spieghiamo qual è la manipolazione. Che ne dici? È sempre il modo migliore, Steven, vai. E allora eccola qui, sentitevela un po'. Vediamo se la riconoscete. So if you lost it, you know I Devo dire che questa è quella che mi è piaciuta di più, forse di tutta la puntata, Banzo, Perché è veramente un lavoro titanico, a parte tutto, però anche il risultato è molto buono. Allora, adesso vi faremo sentire, vi abbiamo fatto sentire un brano del canale Shonky Wonky Donkey, ve ne faremo sentire un altro realizzato con la stessa tecnica. Questo tizio, la cui identità non conosco, che sostanzialmente fa cover a cappella di dischi interi, dove per a cappella non si intende solo con la voce, ma appunto, come avete sentito, con la voce che gli fa tutti gli strumenti, letteralmente. Ed è qualcosa di incredibile. Prima ti chiedevi quanto tempo hanno le persone. Effettivamente, io credo che questo Shonky Wonky Donkey ci possa campare con questo genere di elaborazioni, perché ne ha una marea sul suo canale e, appunto, come dicevo prima, ha prodotto dischi interi, ha coverizzato almeno un album di Strokes, Radiohead, Interpol, tutti con questa tecnica. Se vi è piaciuto questo esempio, adesso ve ne facciamo sentire un altro, comunque andate a cercarvi il canale, perché ci sono delle perle che per ragioni di spazio non abbiamo potuto farvi sentire. Il prossimo invece è un brano degli Strokes tratto dal loro primo disco. E ce l'andiamo a sentire, anche questo sicuramente lo riconoscerete subito. Beh, insomma, anche questo è un gran bel lavoro, Banzo, questa Hard to Explain degli Strokes. No, sì, è bellissimo. Ero talmente entusiasta che la stavo ancora cantando. E il tempo è volato, Steven, comunque. Sì, è volato tra tante alterazioni e manipolazioni. Vi assicuriamo che non abbiamo manipolato l'orario, ma siamo davvero ormai alle 7:52 minuti, se non erro. E quindi ormai davvero ci resta il tempo per i saluti. E soprattutto, Banzo, spiegaci come chiudere una puntata così, perché credo che trovare la miglior chiusura non sia stato facile. Beh, è una chiusura secondo me trionfale, perché vi proponiamo un brano dei Radiohead, che già di per sé è sempre una bella cosa, però rifatto tutto a partire da suoni campionati da Super Mario 64 per la Nintendo, quindi qualcosa di straordinario. Ecco, questa tecnicamente è più una cover, ma come dicevo rientra nel concetto delle manipolazioni. E per chiudere veramente in bellezza, diciamo che non solo questo, il creatore di questo brano On Forward ha coverizzato un brano, ma ha coverizzato tutto il disco in Rainbows dei Radiohead. Lo trovate su Bandcamp a prezzo gratuito, potete pagare quello che volete, io l'ho comprato pagando una modica somma. E appunto, visto che dicevamo c'è sempre il conflitto del copyright, cosa ne pensano i Radiohead? Si sono espressi positivamente tramite il chitarrista Johnny Greenwood, che ha risposto con un tweet contenente una gag apprezzando il lavoro di On Forward. Adesso lo sentirete anche voi. E vabbè, allora questa è un'ottima conclusione. Banzo, grazie davvero di averci accompagnato, di aver elaborato e selezionato tutti i brani, le manipolazioni di questa puntata, per aver manipolato bene lo zibaldone. E ci ritroviamo la settimana prossima, e approfitto anche per salutare il nostro Fausto che ci ha accompagnato in queste due ore di zibaldone, e è stato anche coprotagonista, come vi siete resi conto, con alcuni dei suoi corti e un breve mashup. Fausto, grazie davvero di essere stato con noi. Grazie a voi, e niente, l'appuntamento direi che per il prossimo speciale, e adesso inizierò a ricercare un po' di brani battistiani magari meno noti, perché tanto Battisti è stato molto presente nelle nostri speciali, vi ricordo ad esempio quelli sugli italiani cantano in spagnolo, quindi cercheremo di trovare piccole perle, piccole gemme nascoste, e credo che non mancherà un breve doveroso tributo a Alberto Radius, il storico chitarrista di Battisti e della Formula 3 che ci ha lasciato pochi giorni fa. E certo, insomma, la prossima settimana lo scopriremo. Grazie Fausto, e niente di più niente di meno, come era solito dire il primo sindaco socialista di Madrid, Enrique Tierno Galván, primo sindaco dopo la fine del franchismo, alle 19:55 tutti i venerdì sera diceva: non dico niente, perché qualunque cosa dica dovremmo remixarla invertendo le parole per coerenza con la puntata. Grazie Banzo, buona serata a tutti. Ciao Fausto, godetevi appunto questa versione molto particolare dei Radiohead. Bye bye.